Allora, buonasera. Siamo qui per presentare questo libro che si intitola Il giudice e il terrorista. E già nel titolo c'è questa distinzione, un titolo che riassume la necessità di dare un significato, credo io, a questi termini. Giudice, più che significato di che cosa vuol dire un giudice, che cosa fa un giudice, che cosa deve fare o si trova a fare un giudice, e il terrorista, che invece credo che ponga più il problema di chi è il terrorista, perché la definizione del terrorismo poi alla fine è appunto la definizione dalla quale dipende tutto il resto dei discorsi che si possono fare, dalle questioni più piccole, cioè se è giusto o meno processare una persona per un atto di violenza che ha un valore politico, alle questioni più grandi, perché poi da qui, andando avanti con la catena e gli anelli della catena dei ragionamenti, si arriva, credo io, alla questione della guerra, se è giusto o meno fare la guerra e come reagire una volta che si è in guerra ad atti che per alcuni sono considerati di guerra ed altri invece considerano di terrorismo. Perché poi, come è scritto in maniera molto chiara e efficace nel libro, finché siamo in un ambito interno è piuttosto semplice dare una definizione di terrorismo. Quando si arriva in ambito internazionale, dove addirittura ci sono stati che si accusano gli uni contro gli altri di essere terroristi, il problema è più difficile da risolvere, credo io. Anche perché poi c'è, insomma, il problema è la causa delle azioni che vengono messe in atto e che, a seconda della definizione di quella causa, cioè se è considerata giusta o non giusta, da lì discende anche la qualifica o meno di terrorismo, anche se questo non dovrebbe essere il metodo di valutazione del magistrato, del giurista, mentre invece poi nei fatti spesso credo che capiti così. E quindi bisogna ricorrere alla legge invece per stabilire se un atto è o meno terroristico e come poi considerarlo, ma la legge la scrive uno Stato, la fa uno Stato che risponde a principi che sono prima di tutto politici, e quindi anche questo, diciamo, non è una via che porta a soluzioni semplici, credo io. Tutto questo è per far capire la complessità dei problemi di fronte ai quali ci troviamo. Allora, qui abbiamo stiamo parlando con un giurista, un magistrato e un filosofo giurista, o tante cose, che è Luigi Ferraioli, che tutti conoscono. Io potrei fare delle domande, ma siccome tanto poi funziona che dicono sempre no, prima di rispondere alla domanda dico quello che ognuno si è preparato. Allora, tanto vale dare la parola ai relatori e sentire come loro affrontano questo problema, come loro hanno letto questo libro e che cosa questo libro ha suscitato in loro. E poi eventualmente facciamo delle domande, poi penso che siccome siamo tra un pubblico abbastanza ristretto, ma di persone molto qualificate, possiamo anche interloquire con il pubblico. Allora darei prima la parola a Natalino Ronzitti per sentire da lui quali suggestioni gli ha provocato questo libro, la lettura di questo libro. Allora, grazie Presidente. La prima suggestione, io voglio ringraziare Roberta Barberini per questo libro, perché è un libro che non si rivolge solo agli esperti, ma spero che sia un libro che sia ampiamente letto, diciamo un libro che si colloca in quella che è una tradizione, a mio avviso, di divulgazione scientifica, cioè far capire questi problemi che non sono di facile soluzione anche ai non addetti ai lavori. Perché non sono di facile soluzione? Io mi ricordo che di terrorismo cominciai a occuparmi negli anni 70, c'era un comitato già a quei tempi, un comitato delle Nazioni Unite, un gruppo di lavoro dell'Assemblea Generale per quanto riguarda la definizione di terrorismo, ma questa questione è annosa, non è stata mai risolta come una definizione generale di terrorismo internazionale. È stato finora definito sono i singoli atti di terrorismo in queste convenzioni internazionali che anche la dottoressa Barberini cita, ma non una definizione di carattere generale di cosa sia il terrorismo internazionale. varie tavole rotonde in Italia e all'estero a cui ho partecipato, spesso mi ricordo anche negli Stati Uniti una battuta che venne fuori all'American Society of International Law, era la differenza tra opere d'arte e pornografia. Allora, colui che vede un quadro si rende icto oculo conto se quella è un'opera d'arte, un nudo oppure un'opera pornografica, e così dovrebbe essere per il terrorismo. Ma qua, siccome si ha a che fare con il codice penale, si ha a che fare con convenzioni internazionali, bisogna essere precisi. Perché si era arrivati quasi a avere una convenzione internazionale sul terrorismo, perché abbiamo singole convenzioni, come ho detto, e singole convenzioni sia a livello universale sia a livello regionale, ma non abbiamo una definizione generale, non abbiamo una convenzione omnicomprensiva. Il giudice Barberini ha partecipato come esperto del Ministero degli Esteri a numerose di queste trattative, le elenca in questo libro, ma i due punti fondamentali sono quelli relativi all'eccezione: le forze armate possono o no commettere atti di terrorismo, e in particolare i movimenti di liberazione nazionale. Movimenti di liberazione nazionale che, nonostante sia finita praticamente le guerre coloniali, la decolonizzazione completa, ancora restano i problemi, è inutile nasconderci dietro un dito. Uno dei più grandi che ancora problemi che resta il conflitto palestinese, quindi l'autodeterminazione del popolo palestinese. Forze armate, qua si vogliono esentare le forze armate da questa convenzione internazionale, il comportamento. Devo dire che le forze armate però obbediscono a dei codici di condotta che sono regole giuridiche, sono regole giuridicamente vincolanti, e tra, diciamo, i compiti fondamentali, i doveri fondamentali che hanno quando combattono, è di non ricorrere ad atti che possono spargere il terrore nella popolazione civile. Queste definizioni, come ben si comprendono, sono delle definizioni circolari, perché atti di terrorismo è colui che induce o sparge il terrore nella popolazione civile o in altri ambienti, quindi è una definizione circolare. L'altra questione invece molto dibattuta riguarda i movimenti di liberazione nazionale, ma credo dal punto di vista giuridico il problema è abbastanza semplice da risolvere e è stato risolto. I movimenti di liberazione nazionale debbono comportarsi in tutto per tutto come le forze regolari, nel senso che ci sono delle convenzioni internazionali e le debbono rispettare. Le leggi e gli usi di guerra debbono essere rispettati anche dai movimenti di liberazione nazionale. Non è perché si tratta di guerra asimmetrica, questi movimenti di liberazione nazionale possono gettare delle bombe contro la popolazione civile o, come fanno altri movimenti, usare delle armi che sono indiscriminate. No, questo è vietato dal diritto internazionale, è vietato dal primo protocollo addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra, che gli Stati Uniti non hanno ratificato perché c'era proprio questo problema, Israele, questo problema delle guerre di liberazione nazionale, ma che tutti gli altri stati, compresi gli stati membri dell'Unione Europea e gli stati arabi, hanno ratificato. Vanno meglio le cose sotto il profilo del diritto interno. Qua c'è, è stato introdotto, io non mi voglio avventurare però molto su questa problematica perché sono un internazionalista e non un penalista, è stato redatto questo articolo 270-sexies, e la Barberini critica in parte questa disposizione perché per certi aspetti è restrittiva, per certi aspetti invece allarga un po' quella che è la definizione del terrorismo internazionale, anche per questo riferimento generico che viene fatto alle convenzioni internazionali. Ovviamente si deve trattare di convenzioni internazionali che sono state ratificate dall'Italia, quindi in vigore per l'Italia, oppure vi possono essere delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite giuridicamente vincolanti. E qua ora poi solleverò un altro problema, perché fino a poco tempo fa questo Consiglio di Sicurezza si rivolgeva esclusivamente nei confronti degli Stati, ma non poneva degli atti di legislazione concreta quando si volevano stabilire degli atti di legislazione concreta, bisognava stipulare una convenzione internazionale. Oggi invece, attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza, passa un po' di tutto, ad esempio la 1373 che fu adottata dopo l'affare delle Torri Gemelle è una risoluzione di carattere legislativo. Non so fino a che punto queste risoluzioni siano conformi alla Carta delle Nazioni Unite, ma tant'è, queste risoluzioni sono adottate, per non parlare poi della risoluzione 1540. Quindi sono dei problemi di non poco conto, dei problemi di non poco conto che pongono delle questioni agli operatori del diritto, non solo per quanto riguarda i magistrati, sia i magistrati ordinari sia i magistrati militari, ma anche per quanto riguarda coloro i quali pianificano le nostre operazioni militari all'estero. Qua un grosso problema che è venuto in considerazione riguarda il diritto applicabile alle missioni militari all'estero, specialmente per quanto riguarda il diritto penale, sia a tutela dei nostri militari, sia a tutela delle popolazioni civili, le quali possono essere oggetto di una violenza bellica indiscriminata. Il nostro codice penale militare di guerra è un codice molto avanzato per i tempi in cui fu redatto, quindi prima delle quattro convenzioni di Ginevra, oggi ha bisogno di un ammodernamento anche per poterlo mettere in armonia con i protocolli addizionali della convenzione di Ginevra. Qualcosa è stato fatto, ma non è stato fatto un'opera capillare di legislazione per quanto riguarda la disciplina delle missioni militari all'estero. Ecco, in altri paesi esiste questo diritto che regola le missioni militari all'estero, perché oggi siamo in una situazione di guerra, di non guerra, siamo in una situazione che noi giuristi internazionalisti chiamiamo di conflitto armato, che è quella stabilita dalle quattro, descritta dalle quattro convenzioni di Ginevra e dal primo protocollo addizionale. La situazione di conflitto armato, che può essere un conflitto armato internazionale tra Stati, ma può essere anche un conflitto armato non internazionale, in cui appunto c'è un governo costituito che viene appoggiato da forze di altri Stati e che combatte contro i ribelli. Tanto per fare un esempio, si può fare l'esempio dell'Afghanistan, che è un conflitto armato non internazionale, ma che ha un'intensità, direi, piuttosto cospicua e spesso più intenso di tanti conflitti armati internazionali, di conflitti armati tra Stati. Quindi essenziale è avere una disciplina DOC, a mio avviso, che organicamente disciplina tutta la materia delle nostre missioni all'estero, sia da chi decide la possibilità di inviare le missioni all'estero, sia per quanto riguarda il diritto applicabile alle missioni stesse. L'altro punto riguarda molte convenzioni internazionali, cui la Barberini fa riferimento, che sono necessarie sia per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 270 novellato sexies del codice penale, sia per quanto riguarda il nostro rispetto del diritto internazionale. Ora qua purtroppo si è verificato questa situazione, che spesso noi, per fare i primi della classe, me lo lascino dire, ratifichiamo una convenzione internazionale e poi non l'attuiamo nel nostro ordinamento con una disciplina ad hoc, cioè per fare in fretta si emana l'ordine di esecuzione, si dà l'ordine di legislatore dall'ordine di applicare questa convenzione nel nostro ordinamento. Ora, specialmente quando si tratta di materia penale, il giudice non può applicare questa convenzione perché queste norme non sono immediatamente esecutive, come si dice con il linguaggio anglo-americano, queste norme non sono self-executing. Trattato ovviamente di in materia penale bisogna stabilire delle norme ad hoc, come quando ad esempio ratificammo e demmo esecuzione alla convenzione sul divieto di genocidio con ordine di esecuzione. La convenzione dice solo che bisogna punire severamente i colpevoli, ma non stabilisce la pena. Allora il giudice come fa? Io mi ricordo a quei tempi scrisse una voce l'enciclopedia del diritto e dissi ma in fondo si potrebbe prendere, e per quanto riguarda la pena edittale si potrebbe prendere al delitto di strage e quindi applicarlo al genocidio, ma ovviamente ci fu, insomma, i miei amici penalisti mi fecero dire che questa mia affermazione lasciava molto a desiderare. Quindi bisogna legiferare, e vengo ad un esempio recentissimo che riguarda lo statuto della Corte Penale Internazionale. Siamo stati uno dei primi paesi a ratificare lo statuto della Corte, però vi sono state varie commissioni di cui chi è presente in questa sala qualcuno ha fatto parte, è stato fatto un bell'articolato il quale però mai si è tradotto in un disegno di legge. Quindi noi siamo inadempienti e questo potrebbe essere pericoloso anche per i nostri militari, perché non essendoci una legge ad hoc di esecuzione del statuto della Corte Penale Internazionale, l'Italia potrebbe essere considerata inadempiente e quindi qualcuno potrebbe andare a finire davanti alla Corte Penale Internazionale, il che non lo auguro, perché noi abbiamo gli strumenti ad hoc per poter reprimere nel nostro ordinamento i crimini internazionali. Ma vi possono essere dei problemi concreti che vengono in considerazione. Ad esempio, è venuto ora per l'unico caso che è davanti alla Corte Penale Internazionale, l'unico caso aperto che riguardava un individuo il quale si era rifugiato in Congo e quindi è stata possibile la sua consegna alla Corte Penale Internazionale, ma probabilmente questo signore non sapeva che in Italia non esiste ancora una legge di esecuzione della Corte, dello Statuto della Corte, perché se veniva in Italia noi non avevamo gli strumenti per consegnarlo alla Corte, poiché una legge non è stata attuata. Quindi questo è molto importante, che si faccia questo, si faccia non solo per la Corte Penale Internazionale, ma ad esempio per la Convenzione sul divieto della tortura. E qua noi siamo diventati membri del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, Human Rights Council, e quando per poter essere eletti l'Italia ha avuto un successo, però ha preso degli impegni, si chiamano pledges, e questi due pledges che noi abbiamo assunto, uno è l'attuazione dello statuto della Corte Penale Internazionale, l'altro è la legge di esecuzione per quanto riguarda la Convenzione sul divieto di tortura. E quindi bisogna, questa attività legislativa deve essere fatta, altrimenti poi ce lo vengono a chiedere. Funziona, non funziona questa Corte Penale Internazionale? Io ho sempre detto, fin dall'inizio ero molto scettico, l'ho scritto e lo ribadisco anche perché finché ci sono stati che la guerra la fanno, diciamo, che hanno truppe all'estero che non sono parti dello statuto, questa Corte Penale Internazionale ovviamente non può funzionare o funziona solo in maniera unilaterale. Qua la Barberini cita alcune risoluzioni delle Nazioni Unite con cui si eccettuavano dalla giurisdizione della Corte i peacekeepers americani, ma poi queste risoluzioni non potevano essere più adottate. Gli Stati Uniti hanno stabilito molti accordi di eccezione, perché se un militare americano commette un crimine su un territorio di uno Stato parte allo statuto della Corte Penale Internazionale, questo deve essere consegnato dallo Stato parte alla Corte, ma fortunatamente l'Unione Europea ha detto no, noi non facciamo di questi accordi di eccezione, e nemmeno questi accordi di eccezione devono essere fatti da quegli Stati i quali vogliono diventare membri dell'Unione Europea. C'era qualcuno dell'Europa 27 che stava per fare questi accordi di eccezione, è stato fermato in tempo. Però leggo nel libro della Barberini una notizia di cui non era a conoscenza, che a quanto pare l'ISAF ha fatto un accordo di eccezione con l'Afghanistan per il non trasferimento di militari i quali commettono crimini internazionali alla Corte Penale Internazionale, ovviamente qualora lo Stato nazionale non voglia o non possa sottoporre a giurisdizione questi individui. Io non ho studiato questo problema, ma probabilmente rientra tra le eccezioni del SOFA, e questo SOFA probabilmente, ma è un problema tecnico su cui non mi voglio dilungare, questo SOFA probabilmente rientra tra le eccezioni stabilite dallo statuto, ma insomma è sintomatico che alcuni paesi abbiano detto: bene, noi andiamo in Afghanistan, però i nostri militari non possono essere consegnati alla Corte Penale Internazionale. Un altro punto fondamentale, a mio avviso, per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale, è il rispetto dei diritti dell'uomo. Qua ci sono state varie prese di posizione del Consiglio d'Europa, ma c'è stata anche il summit mondiale del 2005, quindi una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si dice espressamente che la lotta al terrorismo internazionale deve essere effettuata secondo quelli che sono i parametri stabiliti dai diritti dell'uomo. Quindi questi diritti dell'uomo sono inderogabili, non si possono violare, perché bisogna dare la caccia ai terroristi. E qua ci sono dei problemi che la Barberini mette in luce, ad esempio questa problematica delle extraordinary renditions, e a quanto pare una di queste è avvenuta dal territorio italiano, di extraordinary renditions, usando una base americana in Italia, una base NATO in Italia, insomma, sia americana o NATO in Italia. Il problema sta ancora andando avanti, non si sa bene se queste extraordinary renditions era frutto di un accordo tra le autorità dei due paesi, tra Italia e Stati Uniti, ma a mio avviso, ecco qui ragiona l'internazionalista, ecco dove l'internazionale ha un impatto sul diritto penale, qualora sia stato un accordo del genere, questo accordo è nullo, perché è contrario ad una norma di diritto cogente. È contrario a una norma di jus cogens, e quindi lo Stato italiano comunque avrebbe giurisdizione su queste persone, le quali non si possono avvalere di nessuna immunità. L'altro problema, l'altro modo di essere dell'ordinamento internazionale che suscita dei problemi sotto il profilo dei diritti dell'uomo, riguarda queste famose liste che sono venute dal Consiglio di Sicurezza, e non hanno niente di carattere penale, però hanno delle conseguenze di carattere civile, perché il tizio viene immesso in una lista che è amministrata da questo CTC, dal Comitato contro il Terrorismo, e si dice che lui è un terrorista, gli vengono congelati immediatamente i loro beni. E qua purtroppo non ci sono dei mezzi, dei rimedi giurisdizionali, e il problema questo va a trovare. Ci sono problemi di carattere giurisdizionale, rimedi, anche perché succede che queste risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono obbligatorie ovviamente per gli Stati membri. Siccome riguardano bene i rapporti commerciali, sono eseguite con regolamento della Comunità Europea. Queste decisioni sono state impugnate di fronte alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, e la Corte ha detto che queste sono legittime risoluzioni del genere, anche se non c'è un rimedio giurisdizionale. C'è un'apertura a questo riguardo, e risulta che ultimamente si cerca di trovare dei mezzi per accordare all'individuo un rimedio giurisdizionale per essere rimosso dalla lista, perché in lista si va a finire se tizio viene indicato da uno Stato come pericoloso terrorista. Allora un conto è essere indicato dallo Stato X, che ovviamente può avere dei fondati motivi per ritenerlo un terrorista, un fiancheggiatore del terrorismo. Un conto invece che se viene indicato dallo Stato Y, dove in lista ci può andare ad esempio a finire un nemico politico, e una volta che si è in lista è facile entrarci, ma è molto difficile uscirne. E un altro punto appena accennato riguarda l'impiego dei cosiddetti contractors. Ecco, qua io non mi scandalizzo più di tanto, perché bisogna un po' fare attenzione. Questi contractors hanno fatto il bello e il cattivo tempo in Iraq, hanno speso, sembra che abbiano usato ad esempio armi chimiche che possono essere usate in contingenti, per questioni di polizia, ma non per questioni di combattimento, ad esempio gas lacrimogeni o altri agenti chimici. Ma il problema è che questi contractor sono spesso utilizzati, al di là del combattimento, sono spesso utilizzati per svolgere delle funzioni essenziali, ad esempio per il trasporto del munizionamento, delle truppe, eccetera, eccetera. Io ho una ricerca insieme ad altre 7 università europee, siamo che conduciamo questa ricerca, che è finanziata dalla Commissione europea su questo problema delle compagnie private militari di sicurezza, e abbiamo visto che ne esistono nel mondo oltre 200, queste compagnie sono registrate, nessuna in Italia, perché da noi è proibito dal nostro codice penale, in genere sono registrate Stati Uniti, Sudafrica ed altri paesi. Credo ce ne siano 3-4 francesi, ma spesso sono registrati in stati oceanici tipo Seychelles e cose, e paesi del genere. Ecco, qua secondo me è un problema che deve essere disciplinato, e bene ha fatto il Consiglio federale svizzero ad assumere l'iniziativa di mettere intorno al tavolo alcuni stati per vedere come questo problema può in qualche modo essere regolato. Il problema esiste, non va ignorato, quindi bisogna pensare, vedere come può essere regolato. Purtroppo noi siamo completamente assenti da questo, da queste riunioni che sono state fatte dal Consiglio federale svizzero, e dovrebbe uscire, credo, verso settembre-ottobre un documento il quale dà delle linee guida per l'impiego di questi contractors in conformità, non contro, le prescrizioni del diritto internazionale bellico. Io credo, Presidente, che sto forse abusando. Allora, velocemente voglio dire solo una cosa per quanto riguarda l'uso della forza contro i terroristi e contro attori non statali. E ormai la legittima difesa, credo, non è più un tabù, non può essere usata non solo nei confronti di attori statali, ma può essere usata anche contro attori non statali. Se gli Hezbollah colpiscono Israele, ovviamente Israele reagisce contro gli Hezbollah che sono in Libano. A parte il discorso sulla proporzionalità della reazione, e questo ormai è un punto fondamentale in diritto internazionale, quindi anche se un attacco proviene da un attore non statale, quindi da un'organizzazione terroristica, si può reagire in legittima difesa, tanto che l'articolo 51 non dice attacco che deve provenire da uno Stato, parla di attacco armato, non fa riferimento alla gente. Qua ho dei dati giurisprudenziali della Corte Internazionale di Giustizia che non voglio menzionare in questo momento, durante il dibattito. Un altro punto, che è un punto molto caldo perché ha investito il nostro paese, qua sono in disaccordo con la Barberini, riguarda il caso Calipari, questa tragedia che ha colpito il nostro paese. Ecco, dal mio punto di vista, io ho affermato, l'ho scritto in una nota di guida al diritto, l'ho scritto poi in altre pubblicazioni, a commento della sentenza della Corte di Assise, ora scriverò a commento della sentenza della Cassazione, appena verranno fuori le motivazioni. Secondo me in quel caso c'era un difetto di giurisdizione, bene hanno fatto sia la Corte di Assise sia la Cassazione a decidere in quel modo, perché c'è un difetto di giurisdizione del giudice italiano. Quello è un atto imputabile agli Stati Uniti, è un organo degli Stati Uniti, quindi non si può sottoporre a giurisdizione l'organo, tranne che si tratti di un crimine internazionale. Ovviamente se fosse stato commesso un crimine internazionale il discorso è completamente diverso, in quel caso si può sottoporre a giurisdizione. Però il discorso non finisce qua, nella mia nota su guida al diritto l'ho fatto finire qua perché lo spazio è limitato, ma il discorso successivo è il seguente: è vero che lo Stato italiano, il giudice italiano si deve dichiarare incompetente, ma se è stato commesso un illecito nei confronti dell'Italia, lo Stato italiano deve intervenire in protezione diplomatica, questo istituto che noi chiamiamo la protezione diplomatica, per chiedere agli Stati Uniti sia il risarcimento del danno perché è stata lesa una funzione dello Stato italiano, siccome colui che è stato ucciso era un funzionario dello Stato italiano, sia per quanto riguarda una riparazione del danno alle famiglie. Non so come andrà a finire la vicenda, però io quello che in uno scritto recentissimo ho propugnato è quello di dire due cose. Primo, esistono dei SOFA che stabiliscono il riparto di giurisdizione tra Stato che invia e Stato territoriale, e il SOFA però non può disciplinare i rapporti tra una coalizione militare presente in territorio altrui. Quindi bisogna disciplinare la questione. Esiste il SOFA NATO del 1951, ma questo non è, si applica al di fuori della NATO quando si interviene ad esempio in Iraq, in Afghanistan, però a mio avviso bisognerebbe che l'Italia anche in questo caso prendesse un'iniziativa prima di inviare le truppe all'estero in caso di quella che noi chiamiamo coalition warfare. Dovrebbe primo stabilire una disciplina nei rapporti per quanto riguarda la giurisdizione penale tra contingenti presenti in quel determinato territorio. Secondo, una disciplina per quanto riguarda il risarcimento dei danni, perché nel SOFA NATO, ad esempio, si potrebbe applicare per analogia, ovviamente ci vuole una convenzione, in primo luogo si richiedono i danni al proprio Stato, quindi allo Stato che invia, allo Stato della bandiera, e poi c'è una richiesta da parte dello Stato della bandiera e allo Stato, in primo luogo si richiede il risarcimento del danno al proprio Stato nazionale e poi c'è possibilità dello Stato in cui si è verificato il danno di richiedere allo Stato che ha inviato la truppa di risarcire il danno. Quello che è accaduto per quanto riguarda le cermisse, a parte che credo l'Italia ci abbia messo anche del suo, ma in questo caso in primo luogo l'Italia ha pagato, dopodiché ha chiesto agli Stati Uniti di versare una somma per il risarcimento del danno. Quindi questo è un discorso che a mio avviso deve essere disciplinato. E qui, Presidente, io concludo e mi complimento con questo libro, perché da quello che ho detto mi sembra che questi non siano problemi di facile soluzione, che suscitano un dibattito lo debbono suscitare, e quindi ormai queste missioni all'estero sono diventate una connotazione cospicua della politica estera italiana e quindi debbono in qualche modo essere disciplinate. Grazie. Grazie. Sono parecchi spunti. Parecchi spunti, in particolare mi ha colpito l'equazione attore non statale e quindi organizzazione terroristica. Credo che qui ci sia un problema, che in mezzo ci possono essere delle cose intermedie che appunto sono attori non statali ma che non si considerano. No, però nella, certo, però nella semplificazione del discorso credo che questo sia uno degli argomenti che pone dei problemi. E adesso Giovanni Salvi, che vorrei che parlasse di quello che gli pare naturalmente, ma in particolare con la logica del magistrato inquirente, che è quello che porta il terrorista davanti al giudice poi, e quindi in qualche maniera sta in mezzo a queste due figure e forse ha le maggiori difficoltà. Allora, prima di rispondere, no, no, non è così, invece io avevo proprio pensato di parlare di questo, perché poi quando uno ha un'esperienza professionale che l'ha preso per tanti anni è chiaro che le cose le legge e le vede con quest'ottica, e il libro di Roberta Barberini è molto stimolante, in qualche caso anche frustrante, qualche scudisciata che fa bene, perché fa riflettere e ci porta a individuare quali sono i nodi che abbiamo dovuto affrontare negli anni passati e che in parte non sono risolti. Perché questo libro, a mio parere, è molto bello e va letto? Perché queste cose sono affrontate da Roberta Barberini come insider, con la passione di chi queste cose le ha vissute da un'ottica diversa da quella che può essere stata la mia, ma che è comunque l'ottica di chi ha vissuto all'interno di queste problematiche e che ha lottato per molti anni per cercare di far vincere negli organismi internazionali una impostazione che è un'impostazione che non è facile da capire, perché è un'impostazione apparentemente positivistica, e cioè che tende a legare in maniera molto netta l'applicazione delle convenzioni in tema di terrorismo alla definizione giuridica che del terrorismo viene data, in qualche maniera estromettendo tutte le valutazioni di carattere politico, storico e di altro genere che noi invece siamo tentati di dare, operando quella netta distinzione tra diversi livelli della legge in senso lato che legola i rapporti a livello internazionale e poi nelle nazioni, tra appunto le convenzioni in materia di terrorismo, il diritto umanitario e il diritto di guerra. E questo è molto importante, molto interessante, ripeto, non sempre facile da capire, perché può apparire un approccio che impoverisce la forza del come posso, anche ideale del, dello scontro che è alla, alla base. Poi, come spiegare, per esempio Roberta affronta il tema delle lotte di liberazioni e distingue correttamente questo tema da quello del diritto di resistenza, che affronta solo così incidentalmente dicendo giustamente che è un diritto contestato, ma qui siamo proprio alla radice del diritto, siamo al momento che distingue il diritto dalla forza, che ci porta a tutta l'elaborazione della nascita del diritto moderno, nelle diverse interpretazioni del diritto di resistenza come interno o come elemento di rottura, come elemento di forza che fonda poi a sua volta un altro diritto. E queste tematiche, che sembravano tematiche da studiare sui libri di storia, sono oggi tematiche che noi ci troviamo invece come pane quotidiano, tradotto in necessità di scelte che dobbiamo fare. Allora, giustamente, Roberta ci porta a dire che queste scelte sono comunque inserite in un percorso argomentativo giuridico e non sono delle scelte di carattere politico pregiuridico. Comunque si inseriscono nell'ambito dell'interpretazione del diritto internazionale nelle sue tre componenti che indicavo prima. E che anche quindi quel suo impegno, che a volte si vede anche che deve averla portata a soffrire in questi continui, perché io posso immaginare l'esperienza di vivere in questi organismi internazionali dove sembra sempre che sia in un passo dall'accordo, poi arriva qualcuno che dice no, ma qui quella E va trasformata in O, e quello naturalmente cambia tutto il senso dell'intero lavoro che è stato fatto, e Roberta ce ne dà due o tre esempi di questo. Quindi è un libro che va letto anche perché attraverso il filtro della sua esperienza all'interno di questi organismi internazionali, e quindi con una lettura anche appassionante, il tecnico e il non tecnico possono capire quali sono i problemi, la loro profondità che noi abbiamo di fronte. Ecco, allora, come il terrorismo recente, il terrorismo diciamo con una semplificazione islamico radicale, che poi non è solo questo, ce ne sono di tanti altri generi, ma diciamo il terrorismo che apparentemente non è negoziabile perché non pone delle rivendicazioni immediate che possono essere oggetto di negoziazione politica, apre una frattura all'interno del modo con cui noi abbiamo affrontato abitualmente il tema del terrorismo, che è una frattura che noi dobbiamo tenere ben presente, perché c'è un dato di fatto reale, e non capirlo e pensare che si possa dialogare con questo problema con lo stesso armamentario col quale ragionavamo del terrorismo interno, per quanto grave, è un grande errore, perché questo terrorismo è in grado di minare le radici stesse delle democrazie occidentali che si basano sul consenso. Se si vede quello che è successo negli Stati Uniti dopo le Twin Towers, qui insomma gli argomenti di riflessione sono tanti. Io, se penso a quanti spunti ha dato il professor Ronzitti, voi capite quante cose ci sarebbero da dire sul libro di Roberta. Io cerco di tenermi stretto al mio approccio investigativo, diciamo, di un magistrato che si è occupato di queste cose. Allora, anche da questo punto di vista, quanti spunti ci sono dall'esperienza statunitense che vengono a noi? Roberta in questo dà una chiave di lettura molto intelligente, perché a proposito della questione di Guantanamo, degli enemy combatants, non dà la risposta scontata che potrebbe essere gli Stati Uniti sbagliano perché non applicano le convenzioni di Ginevra ai combattenti oppure non li processano secondo le leggi criminali, ma rivela che c'è una frattura che è difficilmente colmabile, tanto che addirittura gli Stati Uniti ritengono di stare facendo di più di quello che a loro sarebbe richiesto dalle convenzioni internazionali, dando un minimo di garanzie ai detenuti di Guantanamo, perché secondo la loro impostazione non sono, sono sì combattenti, ma essendo combattenti che violano norme di guerra e che sono combattenti al di fuori di un quadro di combattimento, non hanno diritto nemmeno a quella protezione. Questa impostazione, che quindi è un'impostazione che mette in gravissima discussione da un lato il diritto internazionale e dall'altro il diritto penale come strumento prioritario con il quale è possibile contrastare fenomeni appunto diversi da quelli del diritto di guerra. Questa impostazione ha avuto una serie di colpi da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Una serie di colpi che per la verità non sono andati fino al cuore del problema, perché queste sentenze, che pure sono progressivamente andate ampliando il raggio della valutazione negativa dei provvedimenti degli Stati Uniti, non sono andate però fino al cuore del problema, che è la war on terror, il fatto stesso di considerare possibile una guerra che sia rivolta nei confronti di un'organizzazione o di un soggetto e che quindi di una entità che non sia territorialmente fondata e che non sia diciamo come tale riconoscibile nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Avere riconosciuto la possibilità di una guerra di questo genere ovviamente ha trasformato radicalmente l'approccio al terrorismo. E questo è il filone che poi porta a Guantanamo, non solo, ma il secondo passo di questo è che, poiché il problema non è più punire, che è il problema del processo penale, punire attraverso un processo garantito, ma il problema è impedire e sconfiggere tutto ciò che non è in sintonia con questa impostazione, non può essere più praticato. Il processo penale addirittura come ostacolo, non semplicemente come qualcosa di inutile, ma come ostacolo, e la segretezza come unica strada che consente di tutelare questi risultati, questo obiettivo di fondo. Quindi questo poi ci porta ancora per una serie di passaggi, sono molto complessi, io li faccio, vi prego anche di scusare qualche schematizzazione, però voglio arrivare a delle conclusioni che riguardano poi noi. Questo porta non solo al problema dell'ammissione della tortura, ma anche all'ammissione dell'utilizzo della prova segreta. Quest'ultima parte è stata proprio 2 o 3 giorni fa, recentissimamente, sfidata da una decisione di una corte federale degli Stati Uniti che ha ritenuto non ammissibili le prove segrete per l'affermazione di responsabilità degli imputati e ha ordinato in un caso estremamente delicato, perché è un caso guida che riguarda un terrorista di un'organizzazione, terrorista, un supposto terrorista di un'organizzazione islamica cinese che si era rifugiato in Afghanistan e quindi catturato, poi dopo insieme a molti altri, quindi è un caso leader di una serie di altri casi possibili, ha affermato che non è possibile utilizzare quelle prove anche con una motivazione svillaneggiante, perché siccome il governo degli Stati Uniti aveva sostenuto che le prove erano forti perché erano sostenute da 3 documenti segreti che riportavano la notizia che questo soggetto appartenesse a questa organizzazione e che questa organizzazione fosse terroristica, la Corte federale gli ha detto: ma non siamo nel paese di Alice, non siamo con Alice nel paese delle meraviglie dove basta affermare 3 volte una cosa perché questa cosa diventi vera. Ha scritto questo sentenza. Però, e quindi questo ci porta al tema delle liste, anche che adesso vedremo per quello che riguarda l'esperienza italiana. Però non commetteremmo, a mio parere, un grave errore se non capissimo che c'è una differenza rispetto al passato, alla quale noi dobbiamo essere in grado di rispondere. Noi che riteniamo che sia possibile un approccio diverso, noi che riteniamo che sia possibile contrastare il terrorismo con le garanzie, noi che riteniamo che non si tratti di una guerra ma che si tratti di un fenomeno complesso, che in alcuni casi è un fenomeno combattente, in alcune situazioni assimilabile assolutamente a entità armate e che quindi nei cui confronti possa essere posta in essere una reazione di tipo militare, ma che al di fuori di questi contesti di conflitto armato è un fenomeno che va contrastato con lo strumento del diritto penale. Noi che crediamo questo dobbiamo capire però che c'è una diversità rispetto al passato e che la sfida può essere talmente forte che è necessario che siamo noi ad assumercela e quindi a capire, per esempio, che la rilevanza degli aspetti preventivi rispetto al passato è molto maggiore. E quindi anche la capacità di utilizzare tutti gli strumenti, compresi quelli preventivi, informativi, quelli, e quindi anche un'anticipazione della sanzione penale, e qui io non, per esempio, non condivido l'impostazione di Roberta su questo punto, perché Roberta critica la legislazione italiana perché la ritiene troppo anticipatrice dell'intervento penale per i reati associativi e per i reati che sanzionano delle condotte quasi per tipo d'autore. Ecco, io non sono d'accordo con Roberta perché non credo che la legislazione italiana sia una legislazione per tipo d'autore, non credo che sia una legislazione che viola i principi di legalità e di tipicità, credo che l'anticipazione della sanzione penale nei termini in cui è fatta in Italia, che ha avuto anche il riconoscimento a livello internazionale a partire dalla Convenzione di Palermo del 99, e poi passando attraverso le tante decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo a proposito della legittimità di alcune scelte che sono state fatte, io penso che sia una scelta anche, come posso dire, che va nel senso del diritto penale come garanzia. Noi abbiamo dovuto riscoprire, questo è un elemento nuovo, straordinariamente importante e interessante, rispetto all'approccio della guerra al terrore, noi abbiamo dovuto riscoprire che il diritto penale è garanzia e che quindi il perseguimento attraverso il diritto penale è uno strumento di garanzia. Roberta, in questo percorso che è molto coerente, fa alcune critiche che io credo di dovere, perché penso che, insomma, una delle ragioni per cui sono stato invitato forse è proprio per questo. In particolare dice: ma questi signori li dobbiamo trattare come combattenti o li dobbiamo trattare come terroristi? Voi non potete avere questo atteggiamento schizofrenico. Da un lato siamo combattenti in Afghanistan e criticate gli Stati Uniti perché fanno i processi a Guantanamo, dall'altro pretendete di trattarli come terroristi. C'è proprio un punto in cui dice questo. Ma io penso che qui sia proprio, perché è giusto che sia così. È giusto che sia così proprio per quel rifiuto di accettare la logica secondo la quale il combattente per la libertà, che come tale è riconosciuto anche nelle convenzioni internazionali, anche nella convenzione del 99 sul finanziamento del terrorismo, è riconosciuto come tale. Anche il combattente per la libertà, anche il combattente contro l'oppressione straniera, se del caso, ha obblighi di osservare, di non violare quelle norme essenziali che sono punite dalla legislazione, dalle convenzioni sul terrorismo e che riguardano l'aggressione indiscriminata nei confronti della popolazione civile. C'è un'ambiguità di fondo, per esempio nella nostra presenza in Iraq e in Afghanistan, c'è un'ambiguità di fondo che non è sciolta, ed è l'ambiguità di fondo del fatto che noi siamo in realtà impegnati in combattimento e nello stesso tempo lo neghiamo e applichiamo, come giustamente Roberta indica, il codice penale militare di pace per quanto riguarda le missioni all'estero. Questa contraddizione c'è, è vera, è reale, ma non è una contraddizione del giudice. È una contraddizione che il giudice deve cercare di superare. Quando Roberta dice la Procura di Roma, ma perché la Procura e il Tribunale di Roma continuate ad applicare le leggi sul terrorismo quando dovreste applicare il titolo che è il titolo quarto del libro terzo del codice penale militare di guerra? Ma innanzitutto perché io non credo proprio che debba essere applicato questo titolo. Adesso questa è una questione complessa giuridica, non vi annoio, ma io credo che la modifica che fu fatta nel 2002 dell'articolo che prevede l'applicabilità di questo titolo ai conflitti armati fu fatta non con l'intenzione di estendere a chiunque, anche civile, l'applicazione del codice militare di guerra, ma fu fatta per sopperire ad una inosservanza da parte del codice penale militare di guerra italiano alle convenzioni internazionali che prevedevano la punizione dei propri militari all'estero. E tutte le norme che riguardano questo titolo sono norme che difficilmente si applicherebbero così come sono ad ipotesi come quelle di cui stiamo parlando, di conflitto certamente armato, ma non in una situazione di guerra. A parte il fatto che mi sfugge poi il valore garantistico, visto che c'è un'unica fattispecie poi di penale che può essere applicata in questi casi, e che è quella generale di chiunque aggredisce le forze armate italiane, che è punita con la pena di morte mediante fucilazione, adesso sostituita ovviamente nel 94 nella guerra, ma per farvi capire, cioè, non è che una norma che è più garantista, è una norma che indiscriminatamente prevedeva la pena di morte mediante fucilazione nel petto. Cioè, stiamo parlando di un diritto penale che è un diritto penale di guerra, che ha questa caratterizzazione. Ma per le ragioni che dicevo prima, io credo che sia giusto applicare con tutti i criteri poi di riconduzione della giurisdizione nazionale la normativa in materia di diritto comune a questi fatti avvenuti all'estero. E vengo all'altro nodo della decisione. Roberta cita giustamente una sentenza che ha fatto scandalo, no? Che è la sentenza della collega Forleo, GUP di Milano, nel processo contro esponenti di una organizzazione terroristica, e giustamente Roberta censura il fatto che sia stata applicata una normativa internazionale che ancora non era stata nemmeno approvata, che sia stata ritenuta, diciamo, un'interpretazione del concetto di terrorismo sulla base dei lavori preparatori di una convenzione che in realtà non era stata mai approvata. Questo è vero. Però io non credo che la decisione del GUP di Milano sia stata presa perché il GUP di Milano riteneva che fosse lecito per i combattenti della libertà utilizzare i kamikaze nei confronti della popolazione civile in una situazione di guerra. Non è così. Il GUP di Milano, a mio parere errando, come poi la Cassazione ha detto, ha ritenuto non utilizzabili una serie di fonti di prova, cioè di prove raccolte in commissione rogatoria internazionale, e ha ritenuto non utilizzabili alcuni altri elementi e in particolare le liste che inserivano quell'organizzazione tra le organizzazioni terroristiche, non le ha ritenute utilizzabili. Di conseguenza ha ritenuto che non ci fosse prova che quei soggetti intendessero fare attentati di tipo di quel genere, perché quelle prove erano nelle commissioni rogatorie che erano state escluse in quanto ritenute inutilizzabili. Una volta escluse queste prove, ha ritenuto che il solo fatto di reclutare dei soggetti per andare a combattere all'estero in una guerra in territorio occupato non fosse punibile dalla legge italiana come attività terroristica. Io non sono d'accordo con questa impostazione. Perché? Non sono d'accordo perché perché erroneamente la collega ha escluso quelle fonti. Non solo le commissioni rogatorie, che invece erano assolutamente legittimamente state acquisite, come poi ha dichiarato la Corte di Cassazione, ma perché anche il discorso delle liste è stato utilizzato, perché la lista in quanto tale certamente non è un elemento di prova. Questo problema noi ce lo siamo trovati in passato con il problema delle organizzazioni mafiose, della qualificabilità come mafioso di un'organizzazione. Se io faccio il processo per l'omicidio di tal dei tali, devo provare che esiste Cosa Nostra? Devo provare che questa struttura è un'organizzazione punibile ai sensi dell'articolo 416 bis? Lo devo fare in ogni processo? Ogni volta che è contestato a un aggravante? La Corte di Cassazione dice no. Dice no perché ci sono ormai tante acquisizioni sul punto che tu puoi ritenere fatto notorio, eventualmente attraverso l'acquisizione delle sentenze passate in giudicato che non riguardano il soggetto che è imputato, per provare che esiste l'organizzazione Cosa Nostra e che quell'organizzazione è di tipo mafioso. La Cassazione, a mio parere correttamente, dice tu non puoi utilizzare le liste come fonti di prova, però puoi utilizzarle come elemento da utilizzare, indiziante, da utilizzare insieme ad altri elementi al fine di una valutazione complessiva della vicenda. Ma questo ci porta, e finisco perché mi rendo conto che trascinato dalla passione prendo tempo, però ci porta ancora una volta, ritorno al problema del segreto. Perché è così difficile per noi accettare questi elementi? Perché è così difficile accettare la commissione rogatoria? Anche qui, se noi non capiamo perché, ci limitiamo a criticare giustamente il GIP di Milano, criticarlo giustamente perché doveva essere criticato. Ma perché? Perché il retropensiero, che è difficile non avere, è che quelle informazioni raccolte per il mezzo di commissione rogatoria con particolari modalità di scarsa possibilità di partecipazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, cui era stato inibito di interrogare direttamente le parti, avevano fatto sorgere, fanno sorgere il sospetto che quelle dichiarazioni non fossero spontanee. Così come il dubbio che dietro le informazioni segrete delle liste utilizzate per questi inserimenti vi siano delle coartazioni di volontà. Allora vedete che riuscire a sconfiggere quella impostazione della guerra al terrore è in realtà fondamentale proprio per perseguire l'obiettivo di una efficace perseguibilità di questi soggetti. E quindi insomma io ho questi elementi di, diciamo, di valutazione dissenziente nell'ambito che ho voluto mettere in rilievo proprio perché sono stato stimolato dal libro di Roberta a ripensare al lavoro fatto, all'impostazione che avevamo avuto. Su un'altra cosa non sono stato sempre d'accordo a proposito proprio del lavoro fatto da noi, quando Roberta critica l'utilizzo dei criteri molto ampli che viene fatto in genere dalla giurisdizione non solo italiana, con il quale si riconosce la propria giurisdizione per perseguire fatti avvenuti all'estero, e cita i fatti cileni ed argentini dicendo non si è cavato un ragno dal buco. Questo è vero in parte. Io sono stato il pubblico ministero di un processo che aveva un altro radicamento perché c'era un fatto commesso in Italia e quindi avevamo una competenza di altro genere. Posso dire che siamo riusciti ad ottenere la prima sentenza, e per il momento l'unica al mondo, sentenza di condanna definitiva del capo del servizio segreto cileno per tentato omicidio, 20 anni di reclusione a lui, 18 anni a Eduardo Iturriaga Neumann, Contreras era il numero 2 del regime, quindi non era un soggetto di basso rilievo, Eduardo Iturriaga Neumann 18 anni. Sulla base di questi elementi, degli elementi di prova raccolti dall'operazione Condor ad altre elementi raccolti in quel processo, sono stati aperti molti altri processi, alcuni dei quali finalmente sembra che si stiano avviando. In Argentina sono stati arrestati proprio sulla base di questi elementi di prova alcuni funzionari del SIDE per il reato per l'omicidio del generale Prats e della moglie. La Procura di Roma ha recentemente richiesto e ottenuto una serie di misure cautelari per i desaparecidos italiani in Argentina. Io non credo che questa giurisdizione sia una giurisdizione, se mantiene saldi principi di diritto in tema di criteri di riconduzione con la giurisdizione nazionale, sia una giurisdizione alternativa rispetto a quella degli organismi internazionali. Penso che anche questa affermazione, che non è di giurisdizione universale, ma è, diciamo, della come in alcuni paesi anche europei, ma è quella di una applicazione senza paure di criteri di riconduzione alla giustizia nazionale, faccia parte di quel complesso di elementi che tendono a riportare e a tenere questa materia sotto il saldo controllo della giurisdizione, che implica sotto il saldo, la salda vigenza delle garanzie. Grazie. Grazie. Allora adesso Luigi Ferraioli, che credo possa essere stato stimolato non solo dalla lettura del libro ma anche da questi interventi, in particolare credo io, poi naturalmente dirà quello che vuole, ma quando Giovanni Salvi ha fatto cenno al cambio dell'atteggiamento del diritto, che non è più di punizione ma di prevenzione sostanzialmente, e quindi è un tema molto caro visto che l'emergenza degli anni 70 italiana è diventata in qualche maniera l'emergenza internazionale degli anni 2000, e siamo arrivati anche a scrivere leggi che puniscono le intenzioni di fatto, e quindi su questo penso che sia molto utile ascoltare Luigi Ferraioli. Grazie, io ho letto con molto interesse questo libro, che ho trovato molto stimolante proprio per i problemi teorici che solleva, i problemi politici ma anche filosofico-politici che solleva, e che hanno a che fare con la questione, diciamo, pregiudiziale che viene affrontata in tutto il libro ripetutamente, della natura del terrorismo. Che cos'è il terrorismo? Roberta Barberini riporta le tante definizioni di terrorismo, propone lei stessa una definizione di terrorismo molto precisa ed efficace, e riporta, diciamo, in qualche modo il processo di sviluppo di una legislazione internazionale attraverso convenzioni e risoluzioni, oltre che delle legislazioni statali, che si sono affannate a definire questa terribile cosa che è il terrorismo. Premettendo fin dall'inizio che il terrorismo è un fenomeno che può essere riguardato in maniera opposta, appunto come forma massima di attentato alle democrazie, alla convivenza pacifica, appunto come attività mostruosa, come crimine mostruosa, e per altro verso viceversa come attività di liberazione, come guerra in qualche modo con i connotati dell'eroismo, della ribellione e della rivolta, che sono poi le due tradizioni che hanno alle spalle la tradizione filosofica, diciamo, della ragion di Stato, in forza della quale non solo gli atti di eversione, ma in generale gli atti di contestazione dell'ordine costituito sono penalizzati in quanto tali, e la tradizione del diritto di resistenza, che viceversa vede in questi atti degli atti dotati di una qualche legittimità politica. Allora, la questione di fondo è proprio, io credo, lo dico fin dall'inizio perché su questo poi tornerò nella seconda parte del mio intervento, è che noi dovremmo sbarazzarci di questa nozione di terrorismo. Può sembrare una tesi assurda, provocatoria, ma cercherò di argomentarla, che ha avuto l'effetto sia di deformare il diritto internazionale che di deformare il diritto interno. Io credo che in nessun'altra materia come in questa l'uso delle parole abbia un peso enorme. In nessun'altra materia come in questa si richiederebbe un uso molto controllato del linguaggio. Il terrorismo, ciò che noi qualifichiamo terrorismo, è un crimine o è un atto di guerra? Questa è la questione. Io ho sentito in particolare l'intervento di Giovanni Salvi, con cui sono molto d'accordo nelle sue implicazioni e conclusioni. Dico subito che non può essere entrambe le cose, per l'antinomia che nella nostra civiltà giuridica, da Hobbes, passando per Kant, Kelsen, eccetera, esiste fra diritto e guerra. O è un crimine o è un atto di guerra. Mentre viceversa i nemici combattenti sono stati qualificati nell'un modo e nell'altro. Allora la questione che dobbiamo affrontare è una questione importante, decisiva, perché sono diverse, addirittura opposte, le risposte istituzionali che la nostra civiltà giuridica ha elaborato e maturato nei confronti dei crimini e della guerra. Alla guerra, a un atto di guerra, si risponde con la guerra. A un atto criminale si risponde con il diritto penale. A un crimine, sia pure gravissimo, si risponde nelle democrazie, appunto, fondate sullo Stato di diritto, con il diritto e non con la guerra. Anche se l'atto terroristico è stato un atto terroristico di straordinaria e gravissima e infame, usiamo tutti gli aggettivi che vogliamo, enormità. L'atto terroristico dell'11 settembre è stato un atto di guerra o è stato un crimine? A quella domanda l'amministrazione americana ha risposto: è stato un atto di guerra, e ha risposto con la guerra. E allora dobbiamo domandarci se la guerra, presentata come un atto di legittima difesa, come un atto di fermezza, non sia stata invece un atto di debolezza, di autolesionismo, di abdicazione alla ragione, che ha avuto l'effetto simultaneo di legittimare la guerra, La guerra è stata rilegittimata in un'epoca in cui non erano più verosimili i conflitti tra stati, pensiamo appunto dopo l'89. È stata rilegittimata la guerra e paradossalmente la guerra ha rilegittimato il terrorismo, ha avuto un effetto di legittimazione del terrorismo. All'aggressione dell'11 settembre si poteva rispondere in due modi, con una mobilitazione che in quel momento era possibile, visto la solidarietà planetaria nei confronti degli Stati Uniti, con un'azione capillare, appunto, di polizia diretta a identificare la rete terroristica sparsa in decine e decine di paesi, una rete capillare che certamente non poteva essere colpita dalla guerra. Perché se il terrorismo non può battere la guerra, neanche la guerra può battere il terrorismo. Questa è un'assoluta banalità. La guerra non solo non può battere il terrorismo, ma è benzina sul fuoco, ha l'unico effetto di alimentare il terrorismo, di assecondare il terrorismo, di legittimare il terrorismo. Ricordiamo come in Italia le Brigate Rosse volevano essere riconosciuti come nemici in guerra. E il non riconoscimento del carattere di guerra dell'insurrezione terroristica, il suo trattamento col diritto penale, è stata in qualche modo una, diciamo, difesa dello Stato di diritto, sia pure indebolita, ma di questo parlerò dopo, dalla legislazione d'emergenza, quando l'obiettivo primo del terrorismo, di qualunque terrorismo, è scatenare la guerra, è essere riconosciuto come guerra. Lo ricorda anche Roberta Barberini, quando parla dell'Irlanda, dove appunto la guerriglia e comunque il terrorismo irlandese voleva essere riconosciuto come guerra, e l'Inghilterra, che ha viceversa risposto con la guerra al terrorismo di Al-Qaeda, non ha mai accettato di riconoscere come guerra e come combattenti appunto i terroristi. E allora, al di là delle questioni di fondo appunto, che sono di carattere morale e di carattere politico oltre che di carattere giuridico e che hanno a che fare con la tenuta e la credibilità dello Stato di diritto, noi dobbiamo chiederci se quella risposta è stata una risposta, non diciamo efficace, ma dotata di senso, di un qualche tipo di razionalità. Perché io credo che il segreto del diritto nel fronteggiare la violenza, quale che sia, consista nella sua asimmetria. La forza del diritto non consiste nella forza dei carri armati o nella forza delle armi, consiste nella sua asimmetria rispetto alla violenza. Intanto i fatti terroristici possono essere depotenziati politicamente, isolati socialmente, screditati moralmente in quanto li si legga come crimini, indipendentemente dalle opinioni politiche che abbiamo, al limite anche di simpatia. In quanto li si legga come crimini, in quanto cioè si dia la risposta simmetrica del diritto penale e si tratti il terrorismo con tutte le garanzie proprie del diritto penale, primo fra tutti il rispetto della persona dell'imputato, che è il banco di prova della asimmetria. Nel momento in cui i terroristi vengono considerati nemici, vengono elevati al livello dello Stato. Nel momento in cui vengono considerati in guerra, è lo Stato che si abbassa al livello del terrorismo e non a caso la guerra diventa terroristica. E qui abbiamo a che fare con l'alfabeto del diritto, del lessico giuridico consegnatoci dalla tradizione. Che cos'è la guerra? Alberico Gentili la definiva armorum publicorum contentio, cioè uno scontro fra armi pubbliche, fra stati. E Roberta Barberini identifica un connotato decisivo, il combattimento. La guerra avviene quando c'è un combattimento fra parti che si fronteggiano, in qualche modo che si riconoscono come eserciti combattenti, e non viceversa quando una delle due parti consiste in una banda clandestina i cui componenti si nascondono come fanno tutti i delinquenti, quali che siano le loro motivazioni. Aver confuso il linguaggio del diritto con il linguaggio della guerra ha significato aver dissolto i fondamenti del diritto internazionale, aver riabilitato la guerra, e riabilitare la guerra significa distruggere l'ordinamento internazionale, perché l'ordinamento internazionale è nato come ordinamento dalla situazione, diciamo, di sistema pattizio, di relazioni fra stati sovrani, qual era quello del modello Westfalia, un ordinamento accomunato dalla soggezione ad alcune norme, non solo quelle del diritto internazionale consuetudinario, ma innanzitutto il divieto della guerra, proprio con la Carta dell'ONU. La Carta dell'ONU, introducendo il divieto della guerra, ha fatto quel che si è fatto con la nascita dello Stato moderno, pensiamo ad Hobbes, il passaggio dallo Stato naturale allo Stato civile, naturalmente non accompagnata da garanzie, da istituzioni di garanzie, dal monopolio giuridico della forza, però quello era la norma costitutiva dell'ordinamento internazionale, è stato il divieto della guerra. E quando la guerra viene viceversa riabilitata per combattere quelli che nel lessico giuridico della nostra tradizione sono fatti criminali, il diritto internazionale, voglio sentire adesso il parere di Ronzitti, a mio parere rischia di dissolversi. Ma soprattutto si dissolve lo Stato di diritto e si dissolve il diritto penale. Perché non a caso la figura stessa del reato di terrorismo è una figura refrattaria alle regole correnti del diritto penale. Non a caso la qualificazione di fatto terroristico, va bene, è una qualificazione che porta inevitabilmente a forme di tipo d'autore. Basta pensare alle liste, no? Io pensavo ci fosse soltanto negli Stati Uniti, no? E cioè il Patriot Act, per cui invece ce l'abbiamo anche nell'Unione Europea, per cui una persona viene inserita nelle liste. Perché questa è una connotazione. Allora io credo che sia un corollario della separazione tra diritto e morale. Io insisto sempre su questo fatto, il fatto che il diritto penale deve avere la forza e il coraggio di leggere i fatti come crimini. Poi potrà introdurre l'aggravante della finalità del terrorismo, potrà in sede di determinazione della pena appunto elevare al massimo o magari ridurre al minimo qualora si tratti di fatti, supponiamo, che vanno giudicati uno per uno e non sulla base di figure astratte. Quindi la connotazione terroristica può avere rilevanza nella connotazione del caso concreto, ma non nella tipizzazione del fatto. Dovremmo avere il coraggio di mettere al bando la figura del delitto politico, che nasce appunto in maniera ambivalente, anzi nella tradizione liberale guardata con favore, il divieto di estradizione, che però è una figura ambigua proprio perché è la figura che, come il terrorismo, politicizza inevitabilmente il diritto penale. Mi rendo conto che questo secondo discorso è un discorso che può sembrare più provocatorio. Io sul primo vorrei sentire l'opinione adesso di Ronzitti e anche ovviamente di Roberta Barberini, che dice Salvi, cioè di Giovanni Salvi, scusami. In altre parole, la questione di fondo ancora più importante di quella che ha a che fare con il diritto penale è precisamente la simmetria tra guerra e diritto. E cioè, io credo che internazionalisti, giuristi, hanno l'onere, il compito di ristabilire il significato delle parole. Però, siccome per fortuna in Italia, ancora il diritto penale, la risposta non è una disputa di guerra, certamente c'è stata la partecipazione alle azioni militari, eccetera, eccetera, ma ancora la giurisdizione tratta questi fatti come fatti penali, io vorrei sollecitare la riflessione proprio sulla china, nella quale ci si pone e che porta non a caso con la qualificazione, con la costruzione del terrorismo, il reato di terrorismo come figura astratta di reato, verso il modello del diritto penale del nemico. Il diritto penale del nemico, che è questa scandalosa espressione che quando fu, poi nel diritto succede così, quando un giurista in qualche modo illustre tira fuori un'espressione, subito si aprono grandi dibattiti, saggi, bibliografie, per cui una cosa che non doveva essere presa sul serio, viceversa, è diventata una categoria, quantomeno della letteratura, che però riflette quello che sta accadendo, e lo riflette non criticamente, ma apologeticamente. Nella proposta del diritto penale del nemico, il diritto penale del nemico viene appunto presentato come alternativa volta a salvare il diritto del cittadino. Allora noi dobbiamo, anche qui è una questione di analisi del linguaggio, è una questione di lessico, di grammatica del diritto. Il diritto non conosce nemici, conosce solo cittadini, uguali, imputati, appunto, che vanno giudicati per quello che fanno e non per quello che sono. E questa è, la base elementare del garantismo penale, ma ciò che distingue il diritto, per l'appunto, dalla guerra. La logica del nemico è inevitabilmente una logica di guerra, che non a caso porta alla, comunque legittima dal punto di vista della guerra combattente, sia la tortura che gli strumenti più, le prove segrete, cioè tutto quello che non ha niente a che fare con il diritto penale e che addirittura rende il diritto penale o il processo penale una copertura ancora più oscena ad una procedura che per l'appunto finisce per non avere basi di giustificazione garantista, di giustificazione giuridica. Io credo che uno Stato di diritto che abbia il coraggio della coerenza e soprattutto la consapevolezza della propria forza dovrebbe avere il coraggio anche di espellere questa espressione terrorismo dal lessico giuridico, configurandola al massimo come un aggravante, secondo me non sarebbe neanche necessario, perché è chiaro che le aggravanti ci sono già, e quindi ci sono le aggravanti dei motivi abietti, ci sono le aggravanti dei motivi viceversa di particolare valore, perché proprio per la sua ambivalenza il terrorismo può essere visto a seconda dei casi nella maniera più diversa, ed è soltanto il momento giurisdizionale che può accertare tutto questo. Mentre la connotazione, la costruzione del diritto penale, in materia di terrorismo, è un segno di debolezza. Vorrei dire anche questo, che questo non significa affatto non prevedere magari pene gravissime, non prevedere una competenza della Corte Penale Internazionale in caso di inattività o in caso di incapacità di procedere delle giurisdizioni statali, non comporta nessun tipo di indulgenza nei confronti del terrorismo. Insisto sulla maggiore efficacia deterrente che ha il diritto penale nei confronti della guerra. Credo che l'esperienza che abbiamo fatto, che è stata fatta dall'umanità con la guerra in Iraq, dovrebbe servire di lezione. Non solo Bin Laden non è stato arrestato, non solo le reti terroristiche non sono state fermate, bloccate, abbiamo avuto appunto decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti con innocenti sia quelle le vittime del terrorismo che le vittime della guerra, abbiamo avuto una perdita della ragione che soltanto la restaurazione del lessico, del diritto, può in qualche modo contribuire a risanare. Grazie. Grazie. Allora, io penso che dopo questa lezione, che ha stimolato moltissimo, credo, gli interlocutori, ma anche l'autrice del libro, allora penso che potremmo velocemente dare la parola a Ronzitti, che è stato anche chiamato in causa, velocemente però, e anche a Giovanni, e poi però sentire Roberta Barberini, e non so se anche qualcun altro dei presenti vuole intervenire, però intanto facciamo così e poi vediamo. Ma io volevo solo dare risposta, perché è stato chiamato in causa su questo problema della guerra, come negazione del diritto. Ma io ripenso un po' ai nostri maestri, Malatore Paglieri, il quale diceva che la guerra non è contraria al diritto, tanto che il diritto è una disciplina, perché esiste una disciplina che si chiama diritto bellico, poi si chiama diritto umanitario, io la chiamo diritto dei conflitti armati, per essere più realista. Sperduti, il mio maestro ed altri affermavano ad esempio che uno dei mezzi del ricambio delle norme giuridiche era la guerra, le norme giuridiche internazionali, faccio riferimento, che il ricambio è rigido perché la consuetudine implica un lasso di tempo notevole, l'accordo presuppone l'accordo del consenso delle due parti, mentre con la guerra si possono stabilire delle nuove discipline. Oggi ovviamente queste teorie non possono essere più sostenute, però devo dire che oggi la Carta delle Nazioni Unite da una parte vieta l'uso della forza armata, concetto più omnicomprensivo della guerra, ma dall'altra parte ammette la legittima difesa, quindi ovviamente si può ricorrere alla forza armata in legittima difesa. E stante questa proibizione che esiste, questo divieto assoluto dell'articolo 2 paragrafo 4, allora cominciano tutte le interpretazioni dell'articolo 51 e si cerca di avere varie fattispecie in cui si può ricorrere in legittima difesa. Uno di questi è appunto questa nozione ormai che si sta avanzando, sta facendo strada, è quello dell'attacco, dell'uso della forza contro le entità non statali, che non vuol dire che siano delle attività, delle entità terroristiche. Per esempio gli Hezbollah non sono considerati da noi o da altri stati come terroristi, però questa entità non statale ha diretto dei razzi, dei tiri di razzi contro Israele, ovviamente Israele reagisce. Io la chiamo legittima difesa più che guerra, basta che poi non si sa bene che cosa sia guerra, perché ci sono varie definizioni e il fenomeno è difficile metterlo sul giusto binario. Ecco, quello però voglio dire è che il diritto disciplina tutte queste attività, nel senso che vi sono appunto, come tu dicevi, alcuni che possono portare le armi e le possono usare, cioè lo Stato, quindi gli eserciti. Per quanto riguarda invece movimenti di liberazione nazionale o partigiani, questi sono obbligati a seguire determinate regole che sono più rigide rispetto a quelle degli eserciti combattenti, e se vuoi c'è una discriminazione di diritto a questo riguardo, ma così è, perché ovviamente quando ci si riunisce intorno al tavolo sono gli stati che decidono, non decidono i combattenti per la libertà o altre categorie di persone. Quindi questo è il diritto positivo e noi ci atteniamo al diritto positivo. Il problema è disciplinare questo strumento dell'uso della forza. Queste affermazioni di Bush, guerra contro il terrorismo, sono delle affermazioni, diciamo, spesso ad effetto, Il problema è invece di vedere se possono essere colpite certe organizzazioni e certi individui. Per esempio, questo è il problema delle uccisioni mirate in Israele, e c'è stata una sentenza della Corte Suprema di Israele a questo riguardo. Allora, l'individuo il quale impugna le armi e in combattimento ovviamente può essere oggetto della violenza bellica. Quindi è per il signore il quale, dopo aver combattuto, poi se ne va a casa, può essere oggetto di un'uccisione mirata o no. E qua si tenta di disciplinare ora questo fenomeno, se ne sta discutendo molto a Ginevra, cioè questa concezione di partecipazione diretta alle ostilità. L'individuo fa parte del gruppo, non è una cosa nuova, è una cosa di ieri. L'individuo fa parte del gruppo, però in quel momento se ne sta a casa sua con la famiglia, quindi si ha diritto di esercitare la violenza bellica nei suoi confronti, oppure la violenza bellica può essere esercitata solo quando l'individuo impugna le armi. Le mie definizioni sono asettiche, io mi baso su strumenti del diritto internazionale, non c'è nessuna connotazione, credo, di carattere ideologico. No, forse non mi sono spiegato. È chiaro che il diritto bellico è un tentativo di solito, che di solito fallisce, perché in tutte le guerre vengono commessi crimini di guerra, sicuramente. Lo sappiamo bene. Quindi è un tentativo che va ovviamente sostenuto, eccetera. Qui la questione di fondo è un'altra. La strage dell'11 settembre, il raid che ricorda Roberto Pellegrini e che all'inizio sollevò l'indignazione del pubblico internazionale contro la Libia per reagire ad un sequestro di persona e con cui furono bombardati, uno stato canaglia, se vogliamo, ma sempre uno stato, e uccisi vari civili. L'atto terroristico, e cioè il sequestro di persona, o per altro verso, la strage, è un atto di guerra o è un crimine? Come vogliamo leggere? Qui noi dobbiamo dare una risposta. Perché se noi diciamo che è un atto di guerra, noi sconvolgiamo l'intero lessico del diritto. Perché dovremmo chiamare atto di guerra anche, non so, le cose mafiose, le stragi. Sono atti di guerra, perché non sono atti di guerra? E non c'è fine al diritto penale del nemico. Qualunque criminalità può essere considerata guerra. Quindi questa è una questione di fondo, di lessico, di grammatica. È un atto di guerra e non può essere entrambe le cose. Scusa, noi cerchiamo una distinzione. E non a caso all'inizio. Una distinzione molto semplice. Quello cioè, l'ius ad bellum, il diritto di cose. Di muovere guerra e lo ius in bello. Allora, cioè in certi casi la forza può essere esercitata. Discorso del bombardamento di Tripoli. Un conto è dire che gli Stati Uniti hanno violato il diritto internazionale. L'altro conto è vedere se questo bombardamento è stato condotto secondo le regole, per cui bisogna discriminare tra che il problema sia nel movente, però di quello che dicevano Ferraglioni, non è appunto, questa è la differenza. Comunque sentiamo un attimo Giovanni Salvi, siamo la parte finale si è riscaldata perché poi siamo andati, vorrei segnalarvi che era proprio il primo punto che avevo indicato, e cioè questo fatto che Roberta ci spinge ad esaminare l'aspetto relativo al diritto positivo in questi termini, a non sciogliere tanto la questione morale e politica di che cosa sarebbe giusto, ma ci dice guardate che il diritto positivo adesso disciplina queste cose in questa maniera. Volevo però solo segnalare una aporia in questo che rimane, che Roberta pure segnala, che anzi dice così, allo Stato è così, che forse proprio perché è disciplinato dagli Stati, alla fine ciò che risulta da questa normativa è che c'è un'area che viene compressa e che è un potenziale elemento di rottura dell'efficacia del diritto internazionale, che è quella appunto del diritto di resistenza, perché nell'ambito di questa complessa disciplina ciò che rimane fuori da una reale regolamentazione è questo che a mio parere è insopprimibile. Ma voi pensate all'Iraq all'Iraq di Saddam Hussein. Io vi faccio un esempio forse anche scioccante, ma voi avreste fatto parte di un gruppo che poniamo, si fosse posto il problema di sparare ad un noto torturatore organizzando un'imboscata e un attentato al fine di impedire che altri torturatori potessero andare avanti? Questo è sicuramente un fatto di terrorismo qualificato come tale secondo tutte le convenzioni. Voi vi pongo, non rispondo per me, in una situazione di questo genere, voi avreste fatto parte di un gruppo che organizza qualcosa di questo genere o no? E questa cosa richiede di essere perseguita attraverso le estradizioni, attraverso le rogatorie, attraverso un impegno dell'intera comunità internazionale per perseguire i soggetti che si sono organizzati per fare questo, oppure no? Questo è il nodo che rimane fuori, che giustamente dice Roberta Barbe, che non è il kamikaze che va a mettere in Afghanistan, va a farsi esplodere, su questo è chiaro, è pacifico, siamo tutti d'accordo e non c'è discussione a livello internazionale, non è nemmeno credo la risposta armata diretta degli Stati Uniti in Afghanistan, su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo che si è risposto nell'ambito di quel diritto di reazione di cui si parlava. Rimane però un'area che io vi ho esemplificato in questa maniera, ma che naturalmente ha tante altre sfaccettature fino a quelle che venivano indicate qua delle uccisioni mirate, che è estremamente più difficile e che è uno degli elementi che nell'ambito della disciplina del diritto internazionale non si riesce attualmente a disciplinare, non si riesce a trovare un accordo, ma questo è facilmente comprensibile perché questo ci porta a delle scelte di carattere politico. Allora, mentre invito l'autrice del libro a venire qui e a dire la sua su questo, cioè professor Ronzitti voleva dire una cosa. Un punto, cioè che secondo il diritto internazionale, secondo la Carta delle Nazioni Unite, la rivoluzione è un fatto indifferente. Colui che porta le armi contro il proprio Stato non commette, secondo la Carta delle Nazioni Unite, nessun illecito internazionale. Ovviamente lo commette sotto il profilo del diritto interno. E proprio partendo da questo presupposto vi sono delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti armati non internazionali e i conflitti armati interni. Cioè, quindi il secondo protocollo addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra disciplina i conflitti armati non internazionali. È ovvio che lo Stato ha tutto il diritto, perché questo è il diritto positivo, poi se lo vogliamo cambiare un altro discorso, ha tutto il diritto di reprimere l'insurrezione. Ed è ovvio anche che i terzi, secondo la teoria più diffusa, possono aiutare il governo legittimo a reprimere l'insurrezione, vedi Afghanistan. Diciamo che una connotazione di carattere morale politico è stato introdotto dalla guerra di liberazione nazionale, ma perché? Perché si sono voluti equiparare i combattenti della libertà a soldati di un conflitto armato internazionale, per cui mentre ad esempio ribellione algerina, la Francia non trattava i ribelli come legittimi combattenti e quindi come prigionieri di guerra se catturati, secondo il diritto delle guerre di liberazione nazionale, che non è accettato dagli stati che hanno in corso guerre del genere, vedi Israele, lo Stato che cattura un combattente della libertà deve trattarlo come prigioniero di guerra, purché ovviamente abbia rispettato il diritto bellico. Cioè il diritto disciplina il fenomeno, il discorso se vogliamo cambiarlo non ci piace. Questo sempre si può fare con nuove convenzioni internazionali. Allora, sentiamo l'autrice con il compito anche un po' di tirare le fila di questo dibattito, forse. Sì. Grazie. No, ecco, sui punti sollevati in particolare da Luigi Ferraioli. È vero quello che dice Natalino Ronzitti, che in base al diritto internazionale ormai è pacifico, quantomeno diciamo dal caso Lockerbie è pacifico, che anche l'attacco sferrato da individui e non da stati legittima poi la legittima difesa e quindi poi l'uso della forza. Però, ecco, è vero, questo in linea di principio, però è vero che l'11 settembre e la reazione all'11 settembre resta un'anomalia. È un'anomalia perché non va dimenticato che gli americani, gli Stati Uniti, si considerano tecnicamente in guerra contro Al-Qaeda. Cioè, è da questo che nasce poi tutta la teoria del nemico combattente e tutta Guantanamo e tutta questa nostra difficoltà poi di discernere appunto il diritto dalla guerra e quindi il terrorista dal combattente. Cioè l'anomalia degli americani, che gli americani ritengono esattamente di combattere una guerra, ma non contro un movimento di liberazione o degli insorti, perché un conto i talebani in fondo, anzi addirittura i talebani sono un governo riconosciuto, i talebani, ma il problema è che i membri di Al-Qaeda non possono in nessun modo essere considerati neanche insorti, anche quando combattono a fianco degli iracheni, okay, non possono essere considerati insorti, quindi questo ha creato in effetti una commistione tra guerra e diritto penale che poi ha portato le difficoltà che hanno anche i giudici italiani adesso nel distinguere, nasce poi da questa, esattamente da questa commistione, per cui non si riesce più a distinguere. Detto questo, che cosa hanno comunque in comune, qual è il problema in questa materia qua? Il problema per il giurista o l'interprete qual è? Che la guerra e il terrorismo hanno in comune il fatto di essere atti di violenza compiuti per un fine politico, no? Quindi, e questo è il problema. Quando questo atto avviene all'interno di quello che è un conflitto armato, c'è il problema di distinguere. E quindi tutto quello che è stato detto fino adesso, quindi il problema comunque resta quello dell'applicare le regole. È sempre un problema di applicazione di regole. Possono essere le regole del diritto internazionale, cioè le regole del diritto dei conflitti armati o le regole del diritto penale, però sempre di regole si parla. Sono, a mio parere, effettivamente è stata la reazione degli Stati Uniti che ha sconvolto un po' questo sistema di regole che c'era prima, preesistente.